A Sant'Ambrogio sono andata a Genova, a Brignole. Una stazione strana, come ce n'erano una volta 40 anni fa o 30, pulita, ordinata, con un bel bar, con dei begli affreschi, in una giornata luminosa. Una strana scoperta, ma non è di questo che voglio parlare. Il viaggio era breve, non certo lungo, e nello scompartimento la gente è salita, me compresa, e insomma la gente, ecco quello che succede. Come il treno partiva esattamente alla 1.05, ognuno ha tirato fuori un cartoccetto, chi con un panino, chi un'arancia, chi una bottiglia di acqua minerale, e sono cominciate, come non di rado accade in treno, degli scambi, degli inviti. Una signora mi ha offerto mezza arancia, io l'ho accolta, qualcuno offriva un pezzo di panino. Cose normali succedono. Poi mi è venuto da pensare come mai invece appaia così tabù che in un altro mezzo su rotaia, praticamente identico, per percorsi poi non così più corti, magari tre quarti d'ora, cioè in tram, nessuno osi mangiare, anzi se qualcuno mastica, sgranocchia, tira fuori un'arancia, la sbuccia, è considerato, forse anche da me, maleducato, scandaloso. Allora all'inizio ho soltanto pensato che il treno è una piccola casa, lo scompartimento diventa una specie di piccolo condominio, ci si chiude dentro, ci si conosce, ci si saluta, ci si fa almeno un cenno, mentre in tram, no, in tram è aperto, ci si sale con un silenzio rancoroso pronto ad esplodere, con tutta l'aggressività accumulata, un braccio che ti sfiora piuttosto che una scarpa, una borsa che ti urta, danno spesso adito a esclamazioni e a strepiti ben maggiori della portata reale dell'occasione. Allora il tram non è una casa, mentre il treno è una simulazione di casa, comunque è un'intimità formale, perché c'è uno scompartimento che si chiude, ci sono 6 o 8 persone che casualmente si ritrovano insieme e decidono di convivere o devono convivere. Ma non mi bastava. Già questo era interessante, perché comunque il tram è anche lui una piccola casa, c'è della gente che fa un viaggio insieme, ma non si accinge a fare un viaggio assieme. E allora mi è venuto in mente che il treno, il viaggio in treno, poi ci sono anche altri viaggi, ma insomma in treno in questo caso è una vacanza. Il viaggio, non importa se breve o lungo, è una vacanza, e quindi è una sospensione del sé quotidiano, di quell'io che è macinato dalla rabbia, dalla fatica, dallo stress, dal freddo della mattina, dal ritardo. E come tutte le vacanze o le situazioni di sospensione, possono anche essere una degenza in ospedale piuttosto che qualunque altra vacanza dal quotidiano, cioè assenza dal quotidiano, allenta l'io che abbiamo, ci portiamo addosso ogni giorno, e paradossalmente lo migliora. Lo migliora perché quell'io si può permettere di essere diverso da com'è di solito, può mangiare più sbraccato davanti ad estranei, magari con le mani, può permettersi di essere più gentile, più affabile, più accondiscendente, più disponibile o più curioso, più sorridente, può fare, dire, pensare cose che nella normalità della vita di tutti i giorni, nella propria abitazione, nella propria città non si fa. Ed è così che si fanno spesso le vacanze, no? Si sta liberi, si sta sciolti, si mangia con le mani, si va a dormire quando si vuole. Ed è forse per questo, e non tanto perché ci si diverte, che si amano così tanto le vacanze, perché in quel periodo viene fuori un io migliore, più libero, più gentile, più accondiscendente, meno ringhioso e rabbioso. Ma questo fa solo pensare che l'io vero è quello di sempre. E sono scesa dal treno che non ero tanto contenta, ma dentro di me facevo un grande inno alle vacanze, ovviamente.